nel mondo islamico è molto complesso. E sono stato quest'estate a Civitavecchia e uno dei rettori del piccolo santuario, adesso stanno, hanno in progetto un grande santuario, e non sono poche le donne islamiche che vanno a chiedere a Miriam, nominata 19 volte nel Corano, vanno a chiedere il dono della fertilità, perché per le donne islamiche la mancanza di figli è considerata una tragedia. E vanno, a volte ottengono la grazia, perché così mi dicono i rettori del santuario, e tornano a ringraziare la Madonna e rimangono islamiche. Questo è probabilmente uno dei modi in cui è possibile l'avvicinamento tra le due fedi, che ciascuno sia coerente fino in fondo con la propria, sapendo che è un errore pensare che se noi ci presentiamo come atei agli islamici verremmo trattati meglio, perché nel Corano c'è una qualche predilezione per i popoli del libro, cioè ebrei e cristiani, purché siano sottomessi, perdonate, purché abbiano una specie di minorità civile rispetto all'islamico. Per esempio, anticamente bisognava alzarsi in piedi quando entrava un islamico nelle zone in cui erano presenti cristiani ed ebrei. E certamente c'era una discriminazione a livello delle tasse. Io insisto su questo perché immagino che in futuro, il giorno in cui gli islamici saranno in maggioranza e ci sarà la decisione di alleviare le tasse degli islamici e di lasciarle inalterate per i non islamici, temo che ci saranno molte conversioni all'islamismo. Solo per le tasse, speriamo di no, insomma, che sia questa una decisione discutibile, diciamo, poi di fatto. Grazie professore, ma volevo sapere se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, se volete avvicinarvi, magari abbiamo, c'è anche sua eccellenza che vuole venire. Vorrei ringraziare di cuore il professore Torresani per questa bellissima relazione che ci ha fatto. Siamo stati attentissimi e ci è sembrato proprio un momento, pur avendo parlato un'ora, per quello che ha detto. Evidentemente in una relazione di un'ora non poteva dire tutto su questo problema. Ci sono tantissimi problemi che bisognerebbe e sarebbe bene affrontare. Io per esempio penso, tra gli altri problemi, all'origine dell'islamismo e al motivo per cui la religione cristiana, quella ebraica e quella islamica si sentono provenire da un unico ceppo, quello di Abramo, per cui l'Islam ritiene di avere il suo progenitore in Ismaele, il figlio di Abramo avuto dalla schiava Agar, mentre gli ebrei provengono dal figlio Isacco e i cristiani provengono sempre da Abramo, accettati nel Nuovo Testamento. Quindi questo è il primo ceppo, il primo problema che sarebbe importante anche sviscerare un po'. Un altro problema per me ancora più importante e fondamentale è che l'Islam ritiene che il Corano sia stato rivelato da Dio a Maometto e quindi come un unico blocco che non può essere toccato, addirittura non può essere tradotto. Ma io mi domando, se gli studiosi, specialmente gli esegeti, coloro che possono fare un esame ermeneutico approfondito di questo libro, facessero quello che è stato fatto per i Vangeli. Voi sapete che gli studi sui Vangeli sono innumerevoli, difficili da enumerare tutti. hanno messo sotto sopra riguardo agli autori dei Vangeli, riguardo al tempo in cui furono scritti, riguardo alle fonti dei Vangeli, eccetera. Se questo esame fosse fatto sul Corano, che cosa resterebbe del Corano? Per i libri, per i Vangeli, l'esame è stato superato, perché i Vangeli ancora oggi sono riconosciuti storici, sono riconosciuti scritti in quei tempi, in quel tempo, anche se qualche dubbio può esserci sugli autori del Vangelo, per esempio quello di Matteo. È evidente che oggi il Matteo che noi abbiamo non è stato scritto da Matteo e non è neanche il primo Vangelo, perché il primo scritto è quello di Marco. Noi invece abbiamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ma gli studiosi oggi sono concordi nel dire che Matteo si è servito anche nello scrivere il suo Vangelo di quello di Marco, e che c'era un Matteo originario probabilmente scritto da Matteo in ebraico, ma si è perso quello. E il Matteo che abbiamo non è una traduzione completa di quel Matteo perduto, ma certamente si è servito anche di quel Matteo che non abbiamo più. Ora io mi domando, se noi facessimo, noi gli studiosi, anche non cristiani, voglio dire chiunque studia questi problemi, facesse un esame approfondito del Corano, che cosa resterebbe oggi del Corano? Perché la prima cosa, da quello che io ho potuto leggere, che appare evidente, è che il Corano non è stato scritto tutto in una volta, che è stato scritto anche dopo la morte di Maometto, che ci sono state diverse manipolazioni, diverse fonti. Quindi se si potesse fare questo studio sarebbe molto bello, e si potrebbe comprendere quello che veramente c'è di storico nel Corano del tempo di Maometto, e quello che poi le varie tradizioni sunnita, sciita, che so io, hanno aggiunto a questo problema. Un'ultima cosa, perché sarebbero tanti, ripeto, i problemi, un'ultima cosa che a me interesserebbe dire è questo. Noi molte volte facciamo il paragone tra la nostra, i nostri cristiani, le nostre comunità cristiane e coloro che appartengono ad altre religioni. Ma facciamo un paragone nel quale la parte cattolica, cristiana, diciamo, non viene presa nella sua realtà, ma in alcune manifestazioni negative. E questo mi pare che sia ingiusto e inaccettabile.